Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che Dio benedica il vostro impegno nell'ascoltare la parola di Dio. Oggi parliamo della vita comunitaria dei primi cristiani. Sono rare le persone che hanno letto il libro degli Atti senza essere stati toccati dal comportamento dei primi cristiani. Purtroppo, nel leggere certi episodi, alcuni credenti stabiliscono dottrine e pure comportamenti da adottare nel XXI secolo. Che la parola di Dio sia una regola non solo di fede, ma anche di condotta, è più che giusto, perché se non fosse così, per il credente non sarebbe più la parola di Dio. In effetti, dichiarare che la parola di Dio sia un'autorità in materia di fede e di condotta e poi comportarsi in modo contrario a ciò che vi afferma è un'assurdità. Ma stabilire e insegnare comportamenti basandosi su episodi narranti il quotidiano vivere dei primi cristiani è molto pericoloso, perché ciò che leggiamo in merito al costume dei credenti nelle scritture non è sempre da imitare. Chi di noi, per esempio, per prendere una decisione tirerebbe a sorte, come hanno fatto gli 11 apostoli in merito alla successione di Giuda, l'Iscariota, che si era impiccato? Eppure, non sono pochi coloro che nel leggere ciò che hanno fatto i primi cristiani sono stati letteralmente sedotti al punto che vorrebbero che oggi ci si comportasse come loro. Cosa hanno fatto i primi cristiani di così particolare, al punto da far desiderare ad alcuni di imitare una condotta adottata 2000 anni fa? Ecco la descrizione che troviamo nel libro degli Atti. Or tutti coloro che credevano stavano insieme ed avevano ogni cosa in comune, e vendevano i poderi e i beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno, e perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel tempio e rompendo il pane di casa in casa, prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo, e il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. A catturare l'attenzione di alcuni è che i primi credenti in Cristo vendevano i poderi e i beni, li distribuivano a tutti e avevano ogni cosa in comune. Perciò, sedotti da questo atteggiamento, insegnano e vorrebbero che si mettesse tutto in comune. Per queste persone questo sarebbe il modello della Chiesa di oggi. Ma, mi domando, le cose stanno proprio così? Vi sono 8 ragioni perché oggi la Chiesa, nella sua espressione comunitaria, non deve imitare i primi credenti in Cristo. La prima è che la comunità della prima Chiesa era affetta di un amore entusiastico. L'entusiasmo è molto bello e a volte anche necessario, ma è spesso anche la causa di molti errori. I primi cristiani avevano un entusiasmo alle stelle e occorre essere molto cauti a imitare ciò che facevano. Chi è stato strappato da una vita di errori conosce molto bene cosa significhi realizzare la nuova nascita, ricevere lo Spirito Santo, sentire un affetto particolare nei confronti dei figli di Dio e quante volte, per entusiasmo, ha avuto un comportamento che oggi non ripeterebbe. Perciò imitare gli entusiasmi è molto pericoloso, soprattutto quando si tratta di coinvolgere un'intera comunità. La scrittura mette in evidenza che la conoscenza senza amore può sbagliare nella forma, ma difficilmente nella sostanza, mentre avverte che l'amore entusiastico senza conoscenza è capace di portare a compiere grandi errori, soprattutto nella sostanza, oltre che nella forma. I primi credenti ebrei in Cristo imitavano la vita comunitaria che Gesù conduceva coi suoi discepoli. Questo è il secondo punto. I discepoli di Gesù vivevano nella massima tranquillità e fiducia, confidando in quello che Gesù aveva detto loro. In effetti, Gesù diede ordine ai suoi discepoli di non prendere nulla con loro durante il viaggio e di mangiare di tutto quello che gli veniva posto davanti. Dunque, I discepoli non avevano neppure il problema di ciò che era impuro. Il motivo principale che spingeva i primi cristiani a mettere tutto in comune non era dettato dall'ideale della comunanza dei beni, ma piuttosto dalla convinzione che il possesso del denaro e dei beni fosse in qualche modo un impedimento a vivere per Cristo. Gesù era povero, dichiarava beati i poveri, vedeva i ricchi in una posizione sfavorevole per entrare nel regno dei cieli, e questi insegnamenti esercitavano un certo impatto sui primi discepoli di Cristo. Anche un gruppo religioso, al tempo di Gesù, gli Esseni, richiedeva la rinuncia ai propri beni, ma dovevano essere devoluti al patrimonio comunitario. Non stupisse, quindi, che la comunità di Gerusalemme adottasse il principio di mettere in comune i propri beni. Un terzo elemento nella Chiesa dei primi cristiani è che la rinuncia dei beni posseduti e di donare ai poveri avevano un carattere facoltativo. È molto importante tenere in considerazione questo aspetto, perché porta i credenti di oggi a capire che il mettere tutto in comune non sia un principio di Dio. Lo dimostra l'episodio descritto sempre nel libro degli Atti al capitolo 5. Ascoltiamo. Ma un certo uomo, di nome Anania, con sua moglie Safira, vendette un podere e trattenne per sé una parte dell'importo d'accordo con la moglie e andò a deporre il resto ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse, Anania, perché a Satana ha riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo e trattenere una parte del prezzo del podere? Se questo restava invenduto, non rimaneva tuo, e il ricavato della vendita non era forse a tua disposizione. Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Anania e Safira non erano obbligati a vendere il podere, come non erano obbligati a donare i soldi per la comunità, gesto invece obbligatorio per certe sette. E per questo proprio i credenti che ritengono buono e giusto mettere tutto in comune cadono vittime in tali sette. Un quarto elemento è che nella Chiesa dei primi cristiani continuava comunque a coesistere il possesso privato dei beni. In effetti, sempre nel libro degli Atti, leggiamo che Maria, la mamma di Giovanni, aveva ancora una casa. E questo dimostra che i credenti non avevano venduto tutto e che la proprietà privata era ammessa. Riflettendo seriamente, se tutti i figli di Dio vendessero tutti i loro beni, chi potrebbe aiutarli quando si trovano nel momento del bisogno? Quando la folla chiese a Giovanni il Battista che cosa dovevano fare per compiere opere che dimostrassero il loro ravvedimento, Giovanni rispose che chi aveva due tuniche doveva darne una a chi non l'aveva. Poiché la tunica rappresenta il minimo indispensabile per essere vestiti, Giovanni il Battista stava ordinando alle folle di donare il superfluo a chi non aveva nulla, non certo l'indispensabile. Se una persona ha solo una tunica e la dona, costringe il prossimo ad aiutarlo. Questo è contro il principio di Dio, il quale vuole che i suoi figli siano in grado di aiutare chi ha veramente bisogno. Il cristianesimo non invita alla povertà, ma ordina di curare i propri affari per vivere sobriamente e temperatamente con dignità. Le sette e i pensieri settari sono la rovina sociale del mondo. E lo dimostra il fatto che dove arriva il giusto messaggio del Vangelo, i popoli hanno una ripresa economica. Nella Chiesa dei primi cristiani mancava l'idea di uguaglianza come noi la intendiamo oggi. I primi credenti non vendevano i beni per un principio di uguaglianza, cioè che tutti dovevano essere poveri nella stessa maniera. Ma gli apostoli prendevano i doni e li distribuivano secondo il bisogno. È curioso notare che chi è a favore della comunione dei beni generalmente fa parte di coloro che non possiedono niente e, a volte, che non ha neppure voglia di lavorare. Se invece sono a favore della comunione dei beni, coloro che hanno dei beni, è un parlare vuoto, perché nulla impedisse loro di vendere quello che hanno e di darlo ai poveri. Non vi sembra? Poi nella chiesa dei primi cristiani tutto era comune, ma non in comune. Questa verità risalta anche dalla parola greca koinos, il quale vuol dire partecipare, parola che si trova nel libro degli Atti al capitolo 2, versetto 44 e al capitolo 4 e versetto 32. Ascoltiamo la lettura di questi due versetti. Or tutti coloro che credevano stavano insieme ed avevano ogni cosa in comune. E il gran numero di coloro che avevano creduto era di un sol cuore e di una sola anima, nessuno diceva esser suo quello che aveva, ma tutte le cose erano in comune fra di loro. La stessa parola greca si trova anche nella lettera di Tito, il capitolo 1, dove si parla di una fede in comune, e in Giuda 3, dove ci si riferisce ad una fede in comune. Perciò i primi cristiani rendevano partecipi i fratelli di tutto quello che avevano, ma non vendevano tutto per livellare il tenore di vita di tutti. Dobbiamo anche tenere presente che il modo di vivere dei primi cristiani giudei ha provocato almeno due scompensi nella Chiesa. Per prima cosa le vedove erano trascurate. In seguito arrivarono alla povertà e altre chiese dovettero aiutarle. Non è certamente da disprezzare l'entusiasmo dei primi cristiani, ma ancora una volta constatiamo che spesso per entusiasmo si possono commettere i più grandi errori. E infine ricordiamo che l'obiettivo dei primi cristiani non doveva essere quello di stare assieme, ma di portare l'Evangelo in tutto il mondo. Gesù ordinò ai suoi discepoli di andare per tutto il mondo a predicare l'Evangelo e di non stare assieme. E poiché non compresero il valore di questo mandato, ci pensò Dio tramite la persecuzione. Così descrive l'Evangelista Luca il grande evento. E disse loro, così sta scritto, e così era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Or voi siete testimoni di queste cose. Dunque, anche se i primi giudei cristiani commisero l'errore di realizzare una vita fraterna, comunitaria, ingiustificata, Dio provvide perché l'Evangelo fosse predicato per tutto il mondo con la persecuzione, dimostrando ancora una volta che il cristianesimo è portatore di un nuovo atteggiamento di spirito e non di una nuova organizzazione della società. L'esempio della Chiesa dei primi cristiani rimane un fatto isolato che ci insegna ad avere un atteggiamento nuovo di fronte al denaro, non un sistema economico nuovo. Chi ha compreso questo benedice Dio, perché l'errore dei primi cristiani è monito affinché non sia ripetuto. E altro non aggiungo, cari ascoltatori, e risentirci per ascoltare ancora la divina parola di Dio.